Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Tredicesima puntata. Seppi allora quello che seppi. E un'allegria fragile, tremante, segnò i miei giorni. Uscire la sera con i giovani poeti messicani mi lasciava esausta o svuotata o con la voglia di piangere. Cambiai a Baino. Vissi nei quartieri Napoles, Roma e Atenor Salas. Persi i miei libri e persi i miei vestiti, ma in breve tempo avevo di nuovo dei libri e anche, sia pure meno alla svelta, un po' di vestiti. All'università mi diedero lavoretti senza importanza e poi me li tolsero. Tutti i giorni, salvo cause di forza maggiore, io ero lì e vedevo quello che nessuno vedeva. La mia adorata facoltà di lettere e filosofia, con i suoi odi fiorentini e le sue vendette romane. Di tanto in tanto incontravo Lilian Serpas al Caffè Quito o in qualche altro locale di Bucareli e, come è naturale, ci salutavamo, ma non parlammo mai più del suo adorato figlio. Anche se certe sere io avrei dato qualunque cosa perché Lilian mi chiedesse ancora di andare a casa sua e dire a suo figlio che quella sera non sarebbe rientrata. Finché un giorno lei smise di farsi vedere, come il fantasma dei venti, nei posti che frequentavo. E nessuno chiese di lei né io volli indagare su dove fosse finita. Tale era la fragilità che aveva invaso il mio spirito. La mia mancanza di curiosità, che era stata invece una delle mie caratteristiche più notevoli. Poco tempo dopo mi venne una gran voglia di dormire. Prima non dormivo mai. Ero l'insonne della poesia messicana e leggevo e festeggiavo tutto e non c'era un brindisi a cui mancassi. Ma un giorno, qualche mese dopo aver visto per la prima e ultima volta Carlos Coffin Serpas, mi addormentai su un sedile dell'autobus che mi portava all'università e mi svegliai soltanto quando due braccia mi presero per le spalle e mi scossero come se cercassero di rimettere in movimento un pendolo rotto. Mi svegliai di soprassalto. A scuotermi era stato un ragazzino sui 17 anni, uno studente, e quando vidi il suo volto dovetti fare uno sforzo grandissimo per non scoppiare a piangere. Da quel giorno dormire diventò un vizio. Non volevo pensare a Coffin, né alla storia di Erigone e Oreste, non volevo pensare alla mia storia, né agli anni che mi restavano da vivere. Così dormivo, ovunque fossi, in genere quando ero sola. Detestavo rimanere sola, quando rimanevo sola sprofondavo subito nel sonno. Ma con il passare del tempo il vizio divenne cronico e mi addormentavo persino quando ero in compagnia. Con i gomiti appoggiati al bancone di un bar o seduta su una scomoda sedia al teatro universitario. Tutte le notti, una voce con l'accento argentino, quella dell'angelo custode dei sogni, mi diceva: «Ehi, Auxilio, hai scoperto dove sono finiti i giovani del nostro continente?» «Zitta», le rispondevo io, «zitta, non so nulla. Di che giovani stai parlando? Io non so nulla di nulla». E allora la voce mormorava qualcosa, diceva una cosa del genere, come se non fosse molto convinta della mia risposta. E io dicevo: «Sono ancora nel bagno delle donne della facoltà di lettere e filosofia e la luna scioglie una per una tutte le piastrelle della parete fino ad aprire un buco da cui passano immagini, film che parlano di noi e delle nostre letture, del nostro futuro veloce come la luce che noi non vedremo». E poi sognavo delle profezie idiote. E la vocetta mi diceva: «Ehi, Auxilio, cosa vedi?» «Il futuro», le rispondevo. «Posso vedere il futuro dei libri del Novecento». «E puoi fare delle profezie?» mi domandava la voce con un tono lievemente misterioso, in cui però non c'era nulla di ironico. «Profezie, profezie. Proprio profezie non lo so, ma posso fare qualche pronostico», rispondevo io con la voce impastata dal sonno. Dai, falle, diceva la vocetta, sinceramente entusiasmata. Sono nel bagno delle donne della facoltà e posso vedere il futuro, dicevo io con voce da soprano e come se mi facessi pregare. Lo so, diceva la voce del sogno, lo so, tu comincia con le profezie che io prendo nota. Le voci, dicevo io con voce da baritono, non prendono nota. Le voci non ascoltano nemmeno, le voci parlano e basta. Ti sbagli? Ma è uguale, tu di quello che devi dire cerca di dirlo forte e chiaro. Allora io prendevo fiato, esitavo, svuotavo la mente e alla fine dicevo: ecco le mie profezie. Vladimir Mayakovsky verso il 2150 tornerà di moda. James Joyce nel 2124 si reincarnerà in un bambino cinese. Thomas Mann diventerà un farmacista ecuadoriano nel 2101. Marcel Proust entrerà in un lungo e disperato oblio a partire dal 2033. Ezra Pound sparirà da alcune biblioteche nel 2089. Vahel Lindsay diventerà un poeta di massa nel 2101. Cesar Vallejo verrà letto nei tunnel nel 2045. Jorge Luis Borges verrà letto nei tunnel nel 2045. Vicente Huidobro diventerà un poeta di massa nel 2045. Virginia Woolf si reincarnerà in una narratrice argentina nel 2076. Louis Ferdinand Céline entrerà in purgatorio nel 2094. Paul Éluard diventerà un poeta di massa nel 2101. Metempsicosi, la poesia non scomparirà, il suo non potere sarà visibile in altro modo. Cesare Pavese diventerà il santo patrono dello sguardo nel 2034. Pier Paolo Pasolini diventerà il santo patrono della fuga nel 2100. Giorgio Bassani uscirà dalla tomba nel 2167. Oliverio Ghirondo troverà il suo posto come scrittore per ragazzi nel 2099. Roberto Arlt vedrà tutta la sua opera sul grande schermo nel 2102. Adolfo Bioy Casares vedrà tutta la sua opera sul grande schermo nel 2105. Arno Schmidt risorgerà dalle ceneri nel 2085. Franz Kafka sarà di nuovo letto in tutti i tunnel dell'America Latina nel 2101. Witold Gombrowicz godrà di grande reputazione nei dintorni del Rio della Plata verso il 2098. Paul Celan risorgerà dalle ceneri nel 2113. André Breton risorgerà dagli specchi nel 2071. Max Jacob smetterà di essere letto, cioè morirà il suo ultimo lettore nel 2059. Nel 2059. Chi leggerà Jean-Pierre Dupré? Chi leggerà Gary Snyder? Chi leggerà Ilary Voronka? Ecco cosa mi domando. Chi leggerà Gilbert Dallas? Chi leggerà Rodolfo Wilcock? Chi leggerà Alexandre Unick? Nicanor Parra, però, nel 2059 avrà una statua in Piazza del Cile. Octavio Paz nel 2020 avrà una statua in Messico. Ernesto Cardenal nel 2018 avrà una statua non molto grande in Nicaragua. Ma tutte le statue volano via per intervento divino o più comunemente per la dinamite, come è successo alla statua di Hain. Perciò non confidiamo troppo nelle statue. Carson McCullers tuttavia continuerà a essere letta anche nel 2100. Alejandra Pizarnik perderà la sua ultima lettrice nel 2100. Alfonsina Storni si reincarnerà in un gatto o in un leone marino, non saprei precisarlo, nel 2050. Il caso di Anton Chekhov sarà un po' diverso. Si reincarnerà nel 2003, si reincarnerà nel 2010, si reincarnerà nel 2014, alla fine ricomparirà nel 2081 e poi mai più. Alice Sheldon diventerà una scrittrice di massa nel 2017, Alfonso Reyes sarà definitivamente assassinato nel 2058, ma in realtà sarà Alfonso Reyes ad assassinare i suoi assassini. Marguerite Duras vivrà nel sistema nervoso di migliaia di donne nel 2035. E la vocetta diceva: che strano, che strano. Alcuni degli autori che nomini non li ho letti. Per esempio, domandavo io, quella Alice Sheldon, per dire, non ho idea di chi sia. Io ridevo, ridevo per un bel po'. Di cosa ridi? Diceva la vocetta. Di averti preso in castagna. Tu che sei così colta, rispondevo io. Colta, colta, proprio colta, non lo so, diceva lei, ma ho letto abbastanza. Che strano, dicevo io. Come se di colpo il sogno avesse fatto un giro di 180 gradi e ora mi trovassi in una regione fredda con una miriade di vulcani. Che cosa ti sembra strano? Diceva la voce. Avere un angelo custode nei sogni di Buenos Aires, visto che io sono uruguaiana. Ah beh, ma è una cosa normalissima, diceva lei. Alice Sheldon firma i suoi libri con lo pseudonimo di James Tiptree Jr., dicevo io, tremando dal freddo. Non l'ho letta, diceva la voce. Scrive racconti e romanzi di fantascienza, dicevo io. Non l'ho letta, diceva la voce, e io la sentivo chiaramente battere i denti. Hai denti? Le chiedevo meravigliata. Denti, proprio quelli che si chiamano denti? No, rispondeva lei. Ma se sto con te, batto i denti che hai perso. I miei denti, pensavo io con un po' di affetto, ma senza alcuna nostalgia. Non ti sembra che faccia un po' troppo freddo? Diceva il mio angelo custode. Sì, molto, dicevo io. Che ne dici di andarcene via da questo posto così gelido? Diceva la voce. Idea grandiosa, ma non so come fare, dicevo io. Bisogna essere un alpinista per uscire da qui senza rompersi l'osso del collo. Per un po' ci muovemmo fra i ghiacci, cercando di scorgere in lontananza Città del Messico. Questo posto mi ricorda un quadro di Caspar David Friedrich, diceva la vocetta. Era inevitabile, rispondevo io. Cosa vuoi insinuare? Diceva lei. Nulla, nulla. E poi, ore o mesi dopo, la vocetta mi diceva: dobbiamo andarcene a piedi. Qui non verrà nessuno a salvarci. E io le dicevo: non possiamo, ci romperemo, o meglio, mi romperei l'osso del collo. Per di più comincio ad abituarmi al freddo, alla purezza di quest'aria. È come ritornare a vivere nella regione più trasparente del dottor Atl, solo più esagerata. E la vocetta mi guardava con un suono triste e cristallino, come la poesia delle vocali di Rimbaud, e mi diceva: ti sei abituata. E poi, dopo un altro silenzio di mesi o forse di anni, mi diceva: ti ricordi di quei tuoi compatrioti che ebbero un incidente in aereo? Quali compatrioti? Dicevo io, stufa che la voce interrompesse i miei sogni da nulla. Quelli che caddero sulle Ande, che tutti diedero per morti e che passarono qualcosa come 3 mesi sulla cordigliera mangiando i cadaveri per non morire di fame. Credo che fossero giocatori di calcio, disse la vocetta. Erano giocatori di rugby, dissi io. Giocatori di rugby? Chi l'avrebbe mai detto? Io pensavo che fossero giocatori di calcio. Bene, allora ti ricordi, no? Sì, mi ricordo, dicevo io, i giocatori di rugby cannibali delle Ande. Beh, devi imitarli, diceva la vocetta. Chi vuoi che mi mangi? Dicevo io, cercando la sua ombra, che suonava enfatica e bella come la poesia Marcia trionfale di Rubén Darío. Me non puoi mangiarmi, diceva la vocetta. Chi potrei mangiarmi allora? Sono qui da sola. Ci siamo tu e io e le migliaia di vulcani e il vento gelido e nient'altro, dicevo camminando nella neve e guardando l'orizzonte in cerca di una qualunque traccia della più grande città dell'America Latina. Ma Città del Messico, maledetta, non si vedeva da nessuna parte. E in realtà quello che volevo era ricominciare a dormire. E allora la vocetta si metteva a parlare della fine di un romanzo di Julio Cortázar, quello in cui il personaggio sta sognando di essere al cinema e arriva uno e gli dice: svegliati. E poi si metteva a parlare di Marcel Schwab e di Jerzy Andrzejewski e della traduzione che aveva fatto Pétol del romanzo di Andrzejewski. Ma io dicevo: basta, meno bla bla, io questa roba la conosco. Il mio problema, sempre che ci sia un problema, non è svegliarmi, cosa abbastanza improbabile, possibile, perché i sogni che faccio sono belli e non c'è essere umano che voglia svegliarsi da un bel sogno, ma non riaddormentarmi. Al che la vocetta mi rispondeva in un gergo psicoanalitico che la identificava chiaramente, se mai mi fosse rimasto qualche dubbio, come vocetta di Buenos Aires e non di Montevideo. Allora io le dicevo: «Che strano! I miei brividi di solito sono uruguaiani, ma il mio angelo custode dei sogni è argentino». E lei, con tono professorale, mi correggeva: «Argentina, al femminile, Argentina». E poi restavamo in silenzio, mentre le raffiche di vento sollevavano collane di ghiaccio che rimanevano sospese in aria qualche secondo e poi scomparivano. E intanto guardavamo tutte e due l'orizzonte immacolato per vedere se spuntava da qualche parte l'ombra di Città del Messico, anche se, a dire il vero, senza troppe speranze di vederla spuntare. La 13ª puntata di Amuleto di Roberto Bolagno, nella traduzione di Lide Carmignani, letta da Maria Paiato per Ad Alta Voce, che è a cura di Fabiana Carobolante, Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, per la regia di Luigi Iavarone. Come sapete, potete riascoltare le puntate di Ad Alta Voce da raiplayradio.it. Ultimo appuntamento con l'album del pomeriggio era un album del 1975, Timeless, John Abercrombie, John Hammer e Jack DeJohnette. L'ultimo brano si chiama Remembering.